Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a questa edizione agostana di Smart City, con la quale vi proporremo una selezione ragionata di alcune delle trasmissioni, dei contenuti che sono andati in onda nel corso dell'anno. Allora, potrebbe sembrare un paradosso, ma la nuova corsa allo spazio non guarda solo alla Luna o a Marte, ma anche a una frontiera molto più vicina di cui ci siamo occupati, l'orbita bassa terrestre, specialmente tra 500 e 1000 km di quota da conquistare con migliaia di mini satelliti. A trainare questo scenario l'obiettivo più carico di implicazioni economiche, la possibilità di creare una rete internet satellitare veloce e a bassa latenza con cui garantire la copertura internet appunto su tutta la superficie terrestre e offrire connettività in particolare a una quota della popolazione planetaria molto ampia che non ha accesso a una connessione in banda larga. Parliamo di 3 o 4 miliardi di persone. L'idea non è del tutto nuova. In passato progetti simili sono già naufragati per ragioni di insostenibilità economica. Tuttavia, complici i progressi tecnologici degli ultimi anni e anche l'aumento della domanda di connettività, non solo oggi la competizione è aperta, ma è anzi in pieno svolgimento e coinvolge alcune delle più quotate, delle più iconiche multinazionali del mondo, come Amazon, come Google, come SpaceX, tutte impegnate a realizzare una propria infrastruttura internet orbitale. Ma non è tutto. Il mondo della ricerca, per esempio, vede nella combinazione di orbite vicine alla Terra e satelliti piccoli o piccolissimi la possibilità di realizzare esperimenti nello spazio a basso costo. Infine, un'altra buona ragione per lanciare in orbita bassa costellazioni numerose è l'osservazione della Terra, osservazione ad alta risoluzione e anche ad elevata frequenza di aggiornamento. Una copertura continua di tutta la superficie terrestre aggiornata ogni pochi minuti permetterebbe, pensate, un balzo per esempio in avanti negli studi del clima, negli studi sul degrado ambientale e anche una maggiore capacità di intervento in caso di disastri naturali. Ma non fatevi trarre in inganno, la frontiera dell'orbita bassa non necessariamente presenta basse difficoltà. Oggi i mini satelliti e soprattutto i microsatelliti, oggetti che possono avere le dimensioni al limite anche di un cartone del latte, vengono lanciati come carico secondario, facendo letteralmente da tappabuchi del carico principale di un lancio e sempre ammesso che l'orbita a cui quest'ultimo è destinato sia utile. E questa è la ragione per cui iniziano a vedere la luce soluzioni dedicate, come per esempio Vega C, che mentre vi parlo è praticamente sulla rampa di lancio in Guyana francese, pronto per il viaggio inaugurale con 53 mini satelliti a bordo. È un razzo costruito per lo più in Italia. Ne ho parlato con Alessandro Gabrielli, capo del Dipartimento Launchers and Space Transportation dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Sentiamo. Come il suo predecessore, il Vega C è composto da 3 stadi con motore a propulsione solida e uno stadio, quello alto, a motore a propulsione liquida. Ha un'altezza complessiva di circa 35 metri e una massa totale complessiva di circa 210 tonnellate. Il primo stadio è il P120C e pensate che è il più grande motore monolitico a propellente solido al mondo ad essere costruito in fibra di carbonio. Questo le conferisce ovviamente prestazioni di elevata resistenza a carichi aerodinamici e strutturali durante la fase di ascesa in atmosfera, soprattutto un'elevata leggerezza. E ha un diametro di circa 3,5 metri, una massa di propellente di circa 140 tonnellate ed ha una spinta di circa 450 tonnellate, quindi riesce a sollevare il doppio del suo peso. E la cosa importante del P120 è che rappresenta il motore di primo stadio per il Vega C, ma sarà impiegato anche come booster laterali di un altro vettore che è in fase di costruzione, che è l'Ariane 6. Certo. Quindi la comunalità con Ariane 6 consente ovviamente di ottenere elevati rati di produzione, certo, che contribuiscono alla riduzione dei costi. Poi abbiamo anche gli altri stati che lo compongono, che è lo Zefiro 40 e lo Zefiro 9. Sono anch'essi dei motori a solido con involucro in fibra di carbonio e sono sviluppati interamente in Italia. Una grande innovazione del Vega C è sicuramente il sistema di dispiegamento di questi microsatelliti, che è chiamato SSMS, ovvero Small Space Transmission Services. È un adattatore che è sviluppato inizialmente, come ho detto, per il Vega e sarà ovviamente enormemente utilizzato per il Vega C, e gli consentirà di aumentare la quantità di satelliti miniaturizzati che possono essere trasportati su ogni singolo lancio. Questo è un servizio che si rivela particolarmente adatto anche per intercettare il mercato di microsatelliti che sta aumentando in questi anni. Infatti. SSMS è composto da diversi moduli che possono essere assemblati in modo diverso per dare origine a diverse configurazioni, che possono quindi rispondere meglio all'aggregato dei satelliti da lanciare in orbita ed è in grado di imbarcare senza alcuna difficoltà addirittura 50 unità di tra microsatellite e CubeSat di diverse dimensioni e pesi per essere poi messi in diverse quote orbitali. Dunque partivamo dal ragionamento che moltissime aree della Terra non hanno oggi una copertura in banda larga, che invece potrebbe essere garantita da una rete satellitare di nuova generazione composta da satelliti che orbitano a quota relativamente bassa, 500-1000 km di altezza. La prospettiva, grazie a questa rete, di poter diventare fornitori di connettività di una parte consistente del genere umano spiega evidentemente l'interesse di colossi come Google o come Amazon nel realizzare una propria rete internet satellitare. In realtà già oggi è possibile collegarsi a internet via satellite. Il servizio è basato su alcuni satelliti geostazionari, quindi distanti dalla Terra circa 36.000 chilometri. Ognuno di questi satelliti può gestire il traffico proveniente da aree vastissime del globo, ma la distanza ha un prezzo. Infatti anche alla velocità della luce, per andare e tornare da satelliti così lontani si perdono decimi di secondo e quindi la trasmissione complessivamente ha un'alta latenza, un alto ritardo, circa 600 millisecondi di media, che è troppo elevato per molte applicazioni internet in tempo reale come videoconferenze o videogiochi. L'unico modo per ridurre i tempi è volare molto più vicino alla superficie terrestre. Pensate che 500 km di quota la latenza delle telecomunicazioni crolla intorno ai 25 millisecondi. Il sistema però diventa molto più complesso. Perché? Perché volando bassi appunto si possono servire solo delle aree limitate del globo, si avvicina alla superficie, e anche solo per un tempo limitato, perché si sorvola rapidamente la superficie. Perciò per realizzare una rete internet satellitare a bassa latenza servono delle reti composte da centinaia o addirittura migliaia di piccoli satelliti, piccoli, ognuno di 100-200 kg, tutti contemporaneamente in volo e tutti in grado di comunicare sia con la Terra sia gli uni con gli altri. A complicare lo scenario c'è oggi la sostanziale mancanza di propulsori adatti ai satelliti più piccoli. Ecco che cosa ci ha raccontato qualche tempo fa a Smart City Elena Toson, direttore business di TDI, una startup impegnata a realizzare una nuova generazione di propulsori chimici e anche elettrici progettati sia per portare piccoli carichi in orbita sia per le manovre orbitali dei mini satelliti. Sentiamo. A fronte delle prospettive, ecco, di lancio di questi microsatelliti, delle aziende hanno iniziato proprio a sviluppare dei sistemi di lancio dedicati a questi satelliti. Il che significa non partire dalla tecnologia dei grandi lanciatori che portavano in orbita che portano tuttora in orbita dei satelliti grandi quanto un autobus e di 8 tonnellate, ma portare in orbita piccole masse e riuscire a distribuirle poi anche nell'orbita e nella loro posizione, no, destinazione finale. Quindi noi in particolare lavoriamo su una tecnologia che ci possa potrà permettere a questi satelliti di essere lanciati intanto ad un costo basso, che è quello che richiedono queste piattaforme satellitari, che non hanno più dei costi di milioni di euro, ma dei costi al massimo di 500.000 euro, quindi costare poco, ma anche di avere un lancio dedicato. Voglio poter lanciare quando voglio e poter essere inserito nell'orbita in cui voglio. Diciamo che noi ci siamo focalizzati su sistemi propulsivi che puntassero e avessero l'accento sulla semplicità, sul basso costo e sull'alta affidabilità e quindi robustezza. Meno cose ci sono dentro, più sei robusto. Quindi abbiamo sviluppato una nuova tecnologia che abbiamo anche brevettato, di propulsione elettrica e altri tipi di propulsione, si parla di propulsione chimica, e qui stiamo lavorando su tre rami: monomotore, bimotore e motore ibrido. E la propulsione ibrida in particolare l'abbiamo testata diciamo a livelli di fino a 30 kN di spinta, quindi si parla di motori corrispondenti al terzo stadio di un microlanciatore, e testati qui a Padova, insomma. E questi sono motori sviluppati propriamente per l'accesso allo spazio. L'accesso allo spazio potrebbe anche avvenire in modo completamente diverso rispetto a come avviene quello dei grandi satelliti. Sentite ancora una volta Elena Toson sull'avvio lancio. C'è bisogno proprio non di miniaturizzare il grande lanciatore, ma di pensare al microlanciatore sin da subito, sin dal design, dalle prime fasi, no, di progettazione. E quindi ad oggi ci sono aziende che si stanno sviluppando ancora nel decollo verticale e altre aziende che, come noi, stanno pensando di sviluppare tecnologie e di propulsive e di creare quindi un lanciatore che viene posizionato sotto la fusoliera di un velivolo. Di un aereo, esatto. E quindi il primo stadio, la spinta del primo stadio viene fornita dall'aereo, ad una certa quota rilascia quello che è il microlanciatore, che poi dà la spinta per portare in orbita satelliti dell'ordine del centinaio di chili. Pochi secondi, torniamo da voi. I campioni dello sport scendono in campo per giocare la partita più importante, quella tutela dell'ambiente che ci circonda. Sono Dario Ricci e ogni sabato alle 22.30 vi racconterò le storie e i progetti degli sportivi impegnati a difesa della natura. Al mio fianco Stefano Tirelli, ideatore del progetto Sport for Nature. Vi aspetto insieme a Dario Ricci a Olimpia Sport for Nature. E allora vi aspettiamo a Olimpia Sport for Nature, naturalmente anche in podcast, qui su Radio 24. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Nuovi lanciatori e nuovi sistemi propulsivi per dare vita a una rete internet satellitare composta da migliaia di mini satelliti in orbita bassa che garantirebbero una connessione in banda larga ovunque sulla faccia della Terra, in particolar modo a 3,8 miliardi di persone che oggi non ce l'hanno. Ne stiamo parlando in questa edizione estiva di Smart City. Tutto dipende dalla capacità di contenere i costi, ostacolo principale per qualunque attività spaziale, ma soprattutto per infrastrutture quali i progetti di cui stiamo parlando. Questo perché la vita dei satelliti che volano a bassa quota, come abbiamo visto un requisito fondamentale, è una vita breve a causa del continuo attrito con gli strati alti dell'atmosfera. E quindi queste costellazioni di satelliti già così numerose avranno bisogno di lanciare centinaia o addirittura migliaia di nuovi satelliti ogni anno solo per compensare le perdite e restare operative. Eppure i progetti procedono. I pretendenti principali al momento sono tre. Il primo è il progetto Kuiper, voluto da Jeff Bezos, un progetto che punta a realizzare una rete composta da 3.236 satelliti posti tra i 590 e i 630 km di quota, Blue Origin, che è l'azienda spaziale di Bezos, lancerà anche i satelliti di Telsat, che è invece una compagnia di telecomunicazioni satellitari canadese che punta a realizzare una intranet satellitare con 300, questa volta, satelliti a una quota più alta, 2000 km. Il progetto più avanzato però è Starlink di Elon Musk, che prevede addirittura 12.000 satelliti orbitanti a 500 km di quota che comunicano fra loro per mezzo di fasci laser. Poche settimane fa un razzo di SpaceX ha lanciato un pacchetto di circa 60 satelliti che hanno portato il totale dei satelliti di Starlink già in orbita a sfiorare i 500. C'è anche qualche preoccupazione. Oggi la fascia orbitale tra i 500 e i 2000 km di quota ospita circa 2000 satelliti e quindi c'è il timore che tutti questi nuovi satelliti possano innescare il cosiddetto Kessler Effect, ovvero una collisione accidentale che crea una nuvola di detriti che innesca un'altra catena di collisioni, finendo insomma per rendere l'orbita un luogo molto pericoloso. Mentre ci sono anche gli astronomi preoccupati perché decine di migliaia di satelliti in orbita possono compromettere seriamente le osservazioni astronomiche, tanto che Musk si è convinto a modificare i satelliti in modo che riflettano pochissima luce. Il successo rimane comunque incerto, come sottolinea McKinsey in un report recentissimo, ed è legata appunto alla capacità effettivamente di abbattere i costi di lancio e anche i costi operativi di gestione dell'infrastruttura. Il fallimento molto recente a fine marzo di OneWeb, che era un altro competitor, quello forse più avanzato nella corsa alla internet satellitare, aveva già messo in orbita 78 satelliti, ha ricordato a tutti quanto sia un'impresa difficile. Molto dipende anche dagli avanzamenti della ricerca scientifica. Sentite che cosa ci ha raccontato Tommaso Andreussi di Sitael in merito al progetto Close to Earth, in cui sono coinvolte anche varie università e vari centri di ricerca. Parliamo del tentativo di elaborare dei propulsori con un design completamente innovativo che siano capaci di volgere a proprio favore la presenza di residui di atmosfera, in particolare quando si viaggia sotto i 250 km di quota. Come sentite? Nella maniera apparentemente più ovvia, ovvero prendendo quella stessa atmosfera che causa la resistenza e che fa decadere l'orbita del satellite, utilizzandola come propellente per accelerare il satellite e mantenerlo in orbita. Ecco, perfetto. Intanto voi utilizzate un particolare tipo di motore, lo abbiamo anticipato, un motore elettrico, ionico, è la sua specialità questa. Come funziona? Sì, sono propulsori che si basano sul ionizzare un gas, in questo caso l'atmosfera, che sta di fronte al satellite. Ionizzare vuol dire fare in modo che gli atomi siano carichi elettricamente. Esatto, praticamente si tratta di separare, di togliere un elettrone, certo, o più elettroni agli atomi e generare una coppia elettrone-ione. E a questo punto che cosa potete farci con queste due cariche invece che con un atomo neutro? Il vantaggio è che queste due cariche sono suscettibili ai campi elettromagnetici e quindi possono essere accelerate mettendo per esempio una differenza di potenziale di fronte alle cariche. Ecco, perfetto. Quindi è un motore che invece di far espandere un gas bruciandolo per farlo accelerare, farlo uscire dall'ugello, utilizza dei campi elettrici per accelerare questi atomi carichi, diciamo così. E normalmente però questi atomi bisogna portarseli dietro sotto forma di propellente, e voi invece avete un'altra soluzione. Esattamente, normalmente nei satelliti che utilizzano la propulsione elettrica per spostarsi nello spazio si porta dietro xenon o propellenti analoghi, invece in questo caso l'idea è quella di raccogliere il propellente proprio dall'atmosfera che genera la resistenza e che fa scendere l'orbita del satellite. Benissimo, e come funziona la cosa? Beh, c'è una sorta di collettore di fronte al satellite. Il satellite è in orbita attorno alla Terra e quindi si muove a quelle altitudini a una velocità di circa 8 km al secondo. muovendosi a questa velocità incontra le particelle dell'atmosfera, le raccoglie con questo collettore, le comprime, le passa a uno stadio di ionizzazione in cui si genera il plasma, e a quel punto il plasma viene accelerato come in un propulsore elettrico tradizionale, utilizzando appunto campi elettrici e magnetici. Ecco, la cosa interessante è che gli atomi da accelerare li raccogliete mentre volate, l'energia per accelerarli li raccogliete con i pannelli fotovoltaici, quindi in teoria questi satelliti potrebbero volare all'infinito. Sì, esattamente. È chiaro che ci saranno altre ragioni per far decadere il satellite. Nulla dura all'infinito. Non è più limitato dal propellente che abbiamo a bordo, come succede invece per tutti i satelliti che vengono mandati nello spazio. Senta, pensando invece alle sonde extraplanetarie, quelle che mandiamo, non so, su Marte per fare ricerche, anche lì immagino che si possa applicare questo paradigma. Sicuramente, anzi è già stato studiato una soluzione analoga proprio per Marte, e in generale in qualunque pianeta con un'atmosfera può essere pensata una soluzione analoga. Ovviamente bisognerà considerare le particelle con cui stiamo interagendo e disegnare il sistema basandoci su quell'atmosfera. A che punto siete di questo progetto? Diciamo, SITER ha avuto l'opportunità di lavorare su questo concetto negli scorsi anni, e nel 2017 ha fatto, nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, la prima prova in laboratorio che il concetto funziona, ma bisogna migliorare l'efficienza del sistema propulsivo per compensare completamente la resistenza generata dal flusso che arriva di fronte al satellite. Quindi bisogna aumentare l'efficienza del sistema per poterlo veramente far volare, diciamo, all'infinito, tra virgolette, come abbiamo spiegato. E quanto tempo pensate che ci vorrà, fra tutto? Porteremo avanti lo sviluppo delle prestazioni del propulsore per i prossimi 2 anni, una dimostrazione in orbita della tecnologia che potrebbe avvenire nell'ambito dei prossimi 5-10 anni. Non c'è solo il mondo del business a volere un accesso allo spazio a basso costo, né solo gli affaristi puntano all'orbita bassa a occuparla con costellazioni numerose. L'osservazione della Terra, per esempio, è una delle attività spaziali più sviluppate, su poco meno di 2700 satelliti attualmente in orbita, più o meno 700 sono deputati a studiare l'atmosfera, i mari, le foreste, le aree urbane, l'idrogeologia del terreno e così via. Ma la cura e la frequenza di aggiornamento dei dati possono migliorare ancora molto e fornire valanghe di informazioni preziose sia per gli studiosi dei fenomeni naturali, sia anche per chi gestisce e amministra attività di vario tipo sulla Terra, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese di logistica, alle attività anche di soccorso dopo un disastro o dopo una catastrofe naturale. E infine c'è la ricerca spaziale. I microsatelliti in particolare offrono per la prima volta la possibilità di condurre esperimenti nello spazio con costi alla portata di molti laboratori universitari del mondo. Parliamo di decine o centinaia di migliaia di euro contro molti milioni di solo pochi anni fa. Proprio il razzo Vega C, che è in attesa sulla rampa di lancio, di cui abbiamo raccontato pochi minuti fa, ospita un esempio di questi mini esperimenti spaziali, come quello che ci ha descritto Luca Nardi, ricercatore Enea del Laboratorio di Biotecnologie. Il satellite che si sta realizzando e che sta realizzando l'Università della Sapienza di Roma è un CubeSat, sono dei piccoli cubi, vengono definiti in base alla dimensione come unità. Difatti una unità generalmente di un CubeSat è intorno a 10x10x10 un litro, sì, non più grande. Certo. Sì. E nel nostro caso la richiesta era per una 3U, e quindi una 3 unità, in cui 2 unità sono dedicate essenzialmente allo spazio di crescita vero e proprio e una unità invece ai sistemi di gestione e controllo, di trasmissione dei dati e della verifica dello stato di salute della pianta, con integrati tutta una serie di sensori. Queste piattaforme sono molto, molto buone soprattutto per i gruppi universitari, perché il costo è basso e si può raggiungere la sperimentazione nello spazio in tempi più rapidi. Cosa ci seminerete in questa microserra? Non è neanche una serra, perché immagino che sia Non è una serra, perché non è trasparente. Il passaggio della luce solare, esatto, non è trasparente, ma utilizziamo nell'illuminazione artificiale la luce LED, basata su luce LED. Andremo a coltivare e stiamo selezionando le specie migliori all'interno della famiglia delle brassicacee, broccoli, cavoli, il ravanello, ce ne sono tantissime, insomma. Mi pare di capire che uno degli obiettivi fondamentali di questa missione è verificare la resistenza delle piante alle radiazioni. È così? Sì, l'orbita che andrà ad occupare il satellite a 6.000 km di distanza dalla Terra è un'orbita molto estrema, saranno molto alta le radiazioni presenti, e questo satellite è poco schermato, quindi radiazioni passano tutte, quindi quello che noi vogliamo vedere è se è possibile vedere la resistenza delle piante, soprattutto per integrare come alimento fresco nelle future missioni spaziali verso Marte le microverdure come alimento. E chissà se saranno buone queste verdure coltivate nello spazio. Certo, buone o non buone, saranno comunque delle verdure spaziali. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Da Maurizio Melis un saluto e a risentirci.